se non sbaglio, padrone, la vostra sposa è quella, l'altra è la mia bella sorvota, gran boccone. Quel muso nero e quel cellere sera mi fece quella tal dichiarazione. E di voi la prima peona preghiera fulmina il nero e ne fu di stazione. Agrippino, mi fa un totale effetto. Son femmine cospetto, e voi duro per birio.